Siete sempre all'ascolto di Radio Popolare e questa è Rimandati a settembre. Chiacchiere sulla scienza, vero Paolo? Chiacchiere sulla scienza e non solo, chiacchiere con gli scienziati e sugli scienziati. Va bene, allora in studio Roberto Caselli e appunto Paolo Magliocco. Eccoci qua. Il primo ospite della nostra trasmissione è un illustrissimo astrofisico, Giovanni Bignami. Ciao Giovanni. Ciao ragazzi. Quindi oggi facciamo un bel ripasso dell'universo dalle origini ai giorni nostri. Fantastico. Con tutto quello che ne consegue. Sì, qualcosa come qualche miliardo di anni, insomma. 13,67 miliardi di anni. Sciocchezza. In un quarto d'ora, facile. Di questi 13 miliardi ce ne manca un pezzettino? Ci mancano i primi 10 alla meno 35 secondi, roba piccolissima, proprio piccola, è il tempo più piccolo che riusciamo a immaginare. Però fondamentale, mi sembra. Purtroppo fondamentale, lì siamo ancora un po', ci stiamo lavorando, diciamo. E poi ci manca l'ultimo pezzettino che vedremo alla fine. Per il resto avremo cucito tutto il filo rosso dal Big Bang alla vita. Ma sei soddisfatto da quello che hai imparato e quello che hai capito durante la tua carriera universitaria, scientifica, illustre tra l'altro? Ricordiamo che Bignami ha dato un nome addirittura a una stella. A un asteroide. Di tutto, lascia perdere. Lascia perdere. La domanda sono soddisfatto è crudele, mi toglie il tappeto da sotto i piedi. Certo che sono felice di aver imparato tutta la vita, ma ho ancora una voglia pazza da imparare. Si riassume dicendo che dell'universo capiamo il 4%, gli astrofisici ce la tirano da mantano, poi vai a guardare dell'universo capiscono il 4%, quindi 96% resta da scoprire. E per cui insomma è il tempo è dalla tua, insomma è tutto da imparare. Insomma. Assolutamente sì. No, gli astrofisici siete voi però. Sì, lo dicevo. Anch'io me la tiro da matto, però allora, dico pubblicamente capiamo il 4%. Cominciamo da questo 4%. Cos'è che sappiamo? Le cose di cui siamo certi assolutamente? Beh, intanto che ci siamo noi, che non è affatto banale, non lo dico io, lo diceva un famoso fisico inglese che chiamava Fred Hoyle, uno che avrebbe meritato il premio Nobel, poi magari ne parliamo ancora, il quale alla fine capì la struttura speciale dell'atomo di carbonio, dicendo, gli chiedevano ma come fai, come hai fatto a intuire questo? Dice perché io esisto. E in effetti la struttura speciale nostra è proprio perché abbiamo finalmente capito che siamo polvere di stelle, che siamo stati costruiti dalle stelle. È tutta una serie di cose che abbiamo capito negli ultimi 70 anni, l'arco della mia vita, per esempio, come le stelle hanno costruito tutti noi, e poi un'accelerazione mostruosa negli ultimi 10-20 anni abbiamo imparato infinitamente di più. Guarda, c'è una metafora piuttosto bella. L'umanità fa astronomia a occhio nudo da, diciamo, 4.000 anni, presso poco, la storia. 400 anni fa, circa, anno più anno meno, Galileo per primo puntò un telescopio al cielo. In questi 400 anni abbiamo imparato molto di più che nei 4.000 precedenti. Da 40 anni facciamo astronomia dallo spazio e lì abbiamo imparato molto di più di quanto ci avesse insegnato Galileo e suoi nei 400 precedenti. Qui c'è un'accelerazione incredibile che continua, per fortuna, fino letteralmente a poche ore fa. Però spiegacelo meglio, perché possiamo dire che noi siamo fatti di polvere e di stelle? Beh, bisogna cominciare un po' prima, bisogna cominciare da quella cosetta stupida che è l'origine dell'universo, che si capisce molto bene con due pezzi d'arte. La prima... Adesso te lo faccio sentire. Ecco, te lo faccio, grazie. Sentire immediatamente, guarda. Grazie. E questo splendido inizio di Schöpfung, la creazione di Haydn, questo genio che nel 1795 inventò il Big Bang, il primo secondo è un'esplosione di suono, e poi la continuazione di una nota leggermente decrescente per una decina di secondi, cosa inimmaginabile, rivoluzionaria nella musica del 1795, che è la migliore rappresentazione musicale del Big Bang e dell'espansione. Però quella ancora migliore è in letteratura una delle cosmicomiche di Italo Calvino, che si intitola Tutta in un punto, che comincia: eravamo tutti lì stretti, che non c'era posto per fare niente, perché non c'era neanche lo spazio, non sapevamo. Poi finalmente comincia l'espansione e allora si comincia a dar gomitate, e c'è anche una signora che fa le tagliatelle, viene fuori tutta la maestria di Calvino, che in una pagina e mezzo spiega tutta la nascita dell'universo. Questi due riferimenti artistici sono il meglio che si possa fare per spiegare l'origine dell'universo, fino ai primi 3 minuti in cui vengono creati i pezzi di materia come li conosciamo adesso. Ma come funziona la cosa? Uno ha un'intuizione e poi dopo cerca di verificarla con quello che ha a disposizione, oppure nasce casualmente la scoperta? Sai, questa qui è la domandona di tutta la scienza, l'evoluzione di Homo sapiens è fatta così, chi ha fatto la clava per primo? Sai, l'intuizione, diciamo che nel caso di la nascita dell'universo e la costruzione prima dell'energia, della massa, delle particelle, eccetera, eccetera, è stata certamente un'intuizione di alcuni grandissimi degli inizi del Novecento, e poi man mano però sono diventate possibili alcune fondamentali verifiche sperimentali, o meglio osservazionali nel caso dell'astronomia. Però noi ci saremmo, con quell'universo lì, saremmo rimasti in una pappetta insipida di idrogeno con un pelino di deuterio, forse qualcosina, ma poca roba. Però per un colpo di fortuna incredibile, l'universo a un certo punto non era proprio tutto bello liscio, c'aveva delle piccole increspature, quelle che abbiamo osservato adesso con i nostri satelliti raffinatissimi, e lì in quelle increspature è cominciato a colare dentro la materia oscura e la materia normale, sono nate le stelle. Le stelle sono quella cosa miracolosa che fanno gli elementi più pesanti dell'idrogeno. Pian pianino, generazione dopo generazione. Di spiegarcela meglio questa cosa dell'increspatura, perché non... È una roba difficile. Allora, sì, è una roba difficile, ma pressa poco. Tu immagina che l'universo sia perfettamente liscio, perfettamente piatto, una sfera in espansione perfettamente liscia, perfettamente piatta. Allora puoi metterci tutta la gravità che vuoi, la gravità sai cos'è, certo. Benissimo, ma non crea dei grumi come nella polenta, diciamo. Sì. I grumi, non succede niente. Tutti tirano un po' da una parte e un po' dall'altra, equilibrio perfetto, e noi tre saremmo delle pappette di idrogeno insipidissime, niente radio popolare, un disastro. Invece, per un colpo di fortuna, c'erano delle piccolissime increspature, ma di una parte ogni 100.000, presso poco, delle robe da niente, che sono bastante però... Ma dovute a che cosa questa? La casualità? Sì, va a sapere dovute a che cosa. E se la polenta fa i grumi... Se la polenta fa i grumi... Noi lo sappiamo perché giriamo poco. No, è più difficile di così. Dipende dalla temperatura, dalla pressione, dipende se com'è la luna. Non è che la polenta fa i grumi così, è una roba difficile. L'universo è lo stesso. È bastato poco e plif, lì ha cominciato a formarsi delle condensazioni, e da quelle siamo venuti fuori noi. Mica male, che eravamo già tutti scritti. Dalla polenta, ti rendi conto? Cioè, incredibile. Bello. Noi, soltanto noi? Facciamo un'altra domandona dal milione di dollari. La vita nell'universo... È un unicum o è una casualità che può ripetersi altrove? Se siamo figli delle stelle, insomma, le stelle ce ne sono miliardi, per cui siamo dei fratellini da qualche parte. Sì. Viene da pensare, no? Infatti, e questa roba qui la pensavano da tempo pensatori importanti dell'umanità. Un esempio per tutti, adattissimo a questa audience, come si dice, Giordano Bruno, il quale, come un pirla, scrisse: ci sono infiniti soli che intorno ci hanno infiniti mondi, questi mondi sono abitati. La Chiesa della fine del Cinquecento dice: cazzo, impazzito, questo qui lo bruciavo, non se ne parla più. poco dopo, devo dire, la Chiesa si è trovata davanti essenzialmente delle prove di quello che diceva, insomma era troppo tardi. Adesso, diciamolo per onestà, davanti a tutti, la Chiesa non ha nessuna difficoltà ad immaginare, come dicono all'Osservatorio Vaticano, our brother extraterrestrials, i nostri fratelli extraterrestri, perché no? Ma al di là di questo, diciamo, non c'è dubbio che noi adesso sappiamo, non più immaginiamo, come aveva fatto anche Leopardi, tra l'altro non solo Giordano Bruno, sappiamo che sostanzialmente ogni stella ha intorno uno o più pianeti. Sembra una roba banale, ma una cosa è immaginarlo, una cosa è vederli. Adesso ne abbiamo viste migliaia e migliaia. Li ha catturati, insomma, in qualche modo. No, li ha creati. Ogni stella li crea i suoi pianeti, come il Sole, c'è intorno una roba che si chiama disco protoplanetario, una roba, anche lì la polenta che fa i grumi, vengono fuori i pianeti intorno alla stella che si è formata. Le stelle tutte uguali, grosso modo, non proprio, ma insomma molto simili tra di loro. Nella nostra galassia ce ne sono un bel 200 miliardi di stelle, solo nella nostra galassia. Nell'universo sono 100 miliardi di galassie, quindi un casino di stelle. 100 miliardi per 100 miliardi. Cioè, certo. Un casino di stelle. Se tutte queste hanno uno o più pianeti, c'è un casino di pianeti, che sono di tipi diversissimi tra di loro, grossi, piccoli, vicini, lontani, gassosi, rocciosi e una ballerata. Però che ce ne sia un certo numero simile alla Terra, oramai è sicuro. Noi ne abbiamo già catalogati una trentina, presso poco, molto molto simili alla Terra e per di più alla distanza giusta dalla stella giusta, per esempio perché sulla superficie ci sia acqua liquida. Okay. Allora, noi di vita ne conosciamo una sola, purtroppo, quindi dobbiamo partire da quello, usando quello come paradigma. E però, oltre a questa osservazione statistica che ti ho detto, c'è un'altra molto precisa, che la vita sulla Terra è partita molto presto, cioè appena la Terra è stata creata, lo diciamo per gli ascoltatori, un numero facile da ricordare, 4,567 miliardi di anni fa. 4,567. Una numerazione molto, perfetta. È molto comodo, diciamo. No? E però quando appena creata era una specie di palla di lava incandescente dove non poteva vivere niente, certo. Ovviamente. Poi è cominciato a raffreddarsi, ci ha messo un po' più di mezzo miliardo di anni, 500-600 milioni di anni a raffreddarsi. A quel punto, appena è stata sufficientemente fredda, appena è stata possibile, la vita è partita sulla Terra, in forma assolutamente elementare, ovviamente. Quindi, per analogia, sarebbe stupido immaginare che la non forma può... elementare, cosa dice? La forma batterica, per esempio? Sì, monocellulare. La vita sulla Terra è stata monocellulare per almeno 3 miliardi di anni, prima che le robe si cominciassero a evolvere ci è voluto un bel po' di tempo, ma questa forma di vita quindi direi che è molto probabile che parta anche su altri pianeti simili, siccome di pianeti simili ce ne sono. Strutturando magari nature diverse, insomma, non necessariamente dobbiamo pensare che di trovare degli esseri umani o degli animali come conosciamo noi, no? Beh, no, e ti telefono a casa, chi lo sa, insomma. Ma su questo siete d'accordo voi scienziati? Voi astrofisici? Scusa, d'accordo su quello che ho detto fino adesso, senza dubbio. E cioè che ci siano tanti pianeti, questo è un dato osservativo sicuro. Okay. Che la vita sia partita rapidamente sulla Terra, allora metti insieme queste due cose... Sostenere che sia partita solo qui è difficile, cioè siamo tutti d'accordo nel dire che è molto probabile che sia partita, per esempio, su Marte. Chi è? Perché Marte è gemello della Terra, è nato nello stesso momento. All'inizio, dopo il raffreddamento, c'aveva anche lui l'acqua, l'atmosfera, eccetera. Poi, siccome è piccolino, è volato via tutto. Ma all'inizio potrebbe essere partito sulla Terra, e c'è chi sostiene che la vita sulla Terra è arrivata da Marte. I marziani siamo noi, un mio famoso libro. Con le famose comete? No, no, da pezzi di Marte. Ma proprio pezzi di Marte, meteoriti. Insomma. Sì, che vengono da Marte. Vabbè, senti, io inframmezzerei questo interessantissimo discorso con un po' di musica. Dai. Allora, abbiamo chiesto a Giovanni Bignami di farci, come dire, una scaletta delle cose... che ama, e dopo il big band di Haydn che abbiamo ascoltato in pochi secondi, adesso sentiamo qualcosa di più completo. Tu hai passato molto tempo in America a lavorare e naturalmente hai portato il retaggio di questa esperienza con parte di musica country, parte di musica in qualche modo legata al songwriter americano. Tu hai proposto John Denver, noi l'abbiamo beccato, e c'è un titolo che ci fa anche comodo, Rocky Mountain High. Rocky Mountain High, perfettamente. Right. Ce la sentiamo subito, eccola qua. I've been lately thinking about my life's time, all the things I've done, how it's been. And I can't help believing in my own mind. I know I'm gonna hate to see it end. Seen a lot of sunshine, slept out in the rain, spent a night or two all on my own. And I've known my lady's pleasures, had myself some friends, spent a time or two. I have to say it now, it's been a good life all in all. It's really fine to have a chance to hang around. Lie there by the fire, watch the evening tire, while all my friends and my old lady sit and pass a pipe around. Talk of poems and prayers and promises, things that we believe in. How sweet it is to love someone, how right it is to care. How long it's been since yesterday, what about tomorrow? What about our dreams and all memories we share? Days they pass so quickly now, nights so seldom long. Time around me whispers when it's cold. The changes somehow frighten me, still I have to smile. It turns me on to think of growing old. Though my life's been good to me, there's still so much to do. So many things my mind has never known. I'd like to raise a family, like to sail away, dance across the mountains on the moon. I have say it now, it's been a good life all in all. It's really fine to have a chance to hang around. Lie there by the fire, watch the evening tire, while all my friends, my old lady, sit and pass a pipe around. Talk of poems and prayers and promises, things that we believe in. How sweet it is to love someone, how right it is to care. How long it's been since yesterday, what about tomorrow? What about our dreams and all the memories we share? e questo era John Denver, Rocky Mountain High. Fantastico. So many things my mind will never know. Un filosofo. Un filosofo. Dici quindi qualcosa della tua esperienza americana. Tu arrivi negli Stati Uniti negli anni 70. Sì, è giusto appunto ai tempi di John Denver. Per esempio, tra l'altro sono arrivato in Colorado la prima volta. Chi ti ha spedito laggiù? Beh, io avevo un capo allora, in tempi di baroni italiani che non si discutevano, si chiamava Giuseppe Occhialini, era un grandissimo della fisica. Beppo Sachs. Beppo Sachs, benissimo, anche un carogna terribile dal punto di vista umano naturalmente, ma io lo adoravo in modo assolutamente viscerale, indiscutibile, come si adoravano una volta i grandi capi. I maestri, e devo dire che mi ha insegnato moltissimo. Ogni giorno mi rendo conto come la sapeva lunga, era uno che aveva conosciuto Fermi, eccetera, eccetera. Queste cose non si possono dire, bisogna essere tutti iconoclasti, però io dentro me lo posso tenere, come dire, l'educazione morale che mi ha dato Occhialini e molti altri, per amor di Dio, adesso parliamo di quello, più o meno grazie a lui. Prima di spedirti negli Stati Uniti, ti ha spedito? Mi ha fatto un mazzo terrificante ad altri livelli. Per esempio, io ero un giovane laureando, giovanissimo, nel 1966 è stata l'alluvione di Firenze, e lui, che era più o meno toscano, perlomeno non era toscano, in realtà era umbro, ma faceva finta di essere fiorentino, diceva bisogna fare qualcosa per Firenze, e quindi tu, per esempio, ti offri volontario e vai a spalare fango a Firenze. Io dico, certo, Beppo, sono qui apposta. E per cui partì, sacco in spalla, sacco pesantissimo, perché lui me lo riempì di scatole d'acqua, perché lui riteneva che non ci fosse da bere a Firenze. Buttai via immediatamente dietro l'arco le scatole d'acqua. Pesanti, andai contento perché lì ci si poteva, si viveva nella stazione di Santa Maria Novella su dei treni, lussuosissimi vagoni letto parcheggiati lì, dove i ragazzotti che spalavano il fango potevano dormire. Ed era promiscua la cosa, quindi mi ho portato dietro una ragazza. Era molto interessante la cosa. E quindi lì una roba da campo di concentramento, spalavamo il fango di giorno e di notte andavamo ad appendere nella centrale termica i fogli dei vecchi libri bagnati della biblioteca, insomma, comunque. L'esperienza poi però ti ha spedito anche negli Stati Uniti. Divertentissima, e poi non si è opposto, diciamo così, che io andassi negli Stati Uniti. Ci sono andato e è stato un momento incredibile, da film letteralmente. Ragazzotto, io mi sono comprato con pochi soldi una macchina fantastica. Io avevo una 500 sgangheratissima, e mi sono comprato un Ford Mustang 8 cilindri a V, 5 litri di cilindrata, faceva un rumore di un sexy pazzesco, la benzina costava niente. Il rumore del Big Bang. Sì. E poi sono andato a lavorare per la NASA, un sogno. Beh, quindi insomma una carriera soddisfacente, indubbiamente. Sì, quello lì è stato un inizio di carriera dove mi sono buttato, non dormivo mai, passavo le notti in biblioteca. Senti, ma come dire, è chiaro che va da sé che l'astrofisica è una tua passione, ma la coniughi con qualcos'altro? Boh, c'è certamente molto, molto altro, un po' evoluti nel corso della vita, ma una passione costante, per esempio, è stata l'alpinismo, finché le forze ci sono state, ho fatto alpinismo anche molto intenso, sia sulle Alpi, sia sulle Ande, e anche in Africa. Ho fatto una via difficile su Mount Kenya, insomma, ho fatto dell'alpinismo. Cercavi di avvicinarti all'universo, insomma. No, cercavo di lasciarci la pelle, non ci sono riuscito, mi sono andato vicino alcune volte, piuttosto emozionante, soprattutto sulle Ande, in questo posto incredibile, lontano dal mondo, da tutto, una cosa che fa molta impressione, molto educativo, trovarsi e sapere che qui torni a casa solo, da solo, a piedi, non c'è niente da fare, certo. Non c'è un telefonino, niente. La scienza, l'alpinismo, la politica? Un po' di politica, sì, cominciata tardi nella vita, no regrets in questo senso, perché se avessi cominciato prima non avrei fatto bene lo scienziato, e preferisco molto aver fatto bene lo scienziato che aveva fatto bene il politico, ma proprio è venuta direttamente dalla scienza la passione per la politica, scienza fondamentale con quel che faccio io, l'astrofisica per esempio, ovviamente è pagata dalle tasse di tutti noi, E quindi io, lo so che sembra ridicolo da dire al giorno d'oggi, ma mi sentivo un dovere, come usatore di taxpayers money, di rendere conto di questo da un lato ai cittadini e dall'altro di cercare di migliorare questa gestione demenziale della scienza pubblica in Italia. Tutti i miei colleghi, senza eccezione alcuna, dicono peste, corna, di tutto. Io anch'io però mi sono detto virgola, e però io provo a cambiare le cose, e questo ha voluto dire entrare in politica. Senti, ma fino a che punto è condizionata dalla politica la scienza? Moltissimo. Moltissimo, perché la politica in qualche modo ha in mano i cordoni della borsa. Volete burro o cannoni? Un F-35 costa esattamente come il budget di un anno dell'Istituto Nazionale di Astrofisica. Certo. E volete burro o cannoni? Ecco, tu hai avuto responsabilità all'Istituto Nazionale di Astrofisica, all'ASI, sì, all'ESA, sì, oggi al COSPAR. E adesso più al COSPAR, però anche al COSPAR, sì. Anche al COSPAR. Poi ci traducete cosa sì, vogliamo sì, dire. Sì, okay. Sì. No, no, traduciamo solo. Agenzia Spaziale Italiana. ASI, Agenzia Spaziale Italiana. Istituto Nazionale di Astrofisica. Sì. Il COSPAR. Il COSPAR è il Comitato Mondiale per la Ricerca Spaziale, lo dico con un minimo di orgoglio, sono stato il primo e l'unico italiano dal 1958 a essere eletto presidente, eletto del Comitato Mondiale per la Ricerca Spaziale, 45 nazioni in giro in tutto il mondo che si mettono insieme per fare come le Nazioni Unite dello spazio, diciamo. L'Agenzia Spaziale Europea, ho fatto presidente del Comitato Scientifico dell'Agenzia Spaziale Europea e ho scritto il programma per il futuro che ancora adesso viene adoperato. Per fai le... politica o fai ricerca? In che proporzione l'una e l'altra quando hai questi ruoli? Questi ruoli che hai menzionato adesso è politica della ricerca, che è una cosa diversa dalla politica tout court. Cioè, mi spiego, una volta riuscito a ottenere lancia e resta, pugnal fra i denti, la baionetta, diciamo, ottenuto più soldi possibile per il tuo scopo, dopo si chiude la porta, ci si scazza e si decide come si fa a spendere nel modo migliore questi soldi a livello italiano, europeo, mondiale, nel contesto, eccetera, eccetera. E quindi anche questo è un modo di fare politica, ma che è molto diverso dalla politica invece che si fa nel contesto della Repubblica Italiana o dell'Unione Europea. Però oggi i soldi li ottieni anche al contrario, cioè essendo capace di proporre dei risultati, dei progetti, degli obiettivi che siano così affascinanti e anche spendibili politicamente, no? Per chi, certo, per chi governa, sì, da dire ok, questa cosa qui te la finanzio. Se tu dici che vai a cercare il bosone di Higgs o la vita, certo, extraterrestre, è più facile ottenere. In questo senso è importante, no? Saperlo fare. Assolutamente sì, assolutamente sì. Sì, sì, questa è una parte che si chiama in modo semplicistico lobbying, ma che in realtà è, per esempio, è basata su una cosa che io raccomando continuamente ai miei studenti, futilmente peraltro, di capire come funziona lo Stato. Nessuno sa come funziona lo Stato. Se facciamo un test ai nostri ascoltatori, qual è la differenza tra governo e Parlamento? Pochi, beh, lo sanno. Forse Radio Popolare lo sa. Sì, va bene, hai ragione. Più degli altri, diciamo, più degli altri, mettiamola così, no? Cioè capire dove tu puoi ottenere i soldi che alla fine devono essere scritti nella finanziaria, per esempio. Certo. Non devono essere gli scienziati parole. Dovrebbero saper fare un po' più politica. Sì, sapere prima di tutto questo. Poi riuscire a essere capaci, come hai detto tu, di presentare americano, make an offer they cannot refuse. Però tu parli come se lo scienziato fosse, come dire, un puro, non fosse legato a sua volta, così per interessi anche di carriera e tutto il resto, a un mondo politico. No, hai ragione, parlo così perché oggettivamente io non sono mai stato legato, forse perché non mi hanno dato la possibilità, non so cosa sarebbe successo se avessi avuto la tentazione, diciamo, questo lo confesso, come però... Nessuno mi ha mai offerto. Io futilmente, per esempio, avevo proposto a diversi governi di inventare una cosa che in America e in Inghilterra c'è da moltissimi anni, ed è un consigliere scientifico del governo, per esempio, del primo ministro. Nell'ufficio del primo ministro, sia in Inghilterra che negli Stati Uniti, c'è un consigliere scientifico, ma non un amico di famiglia che dice, uno che è una persona rispettata dalla comunità scientifica. Certo. Benissimo. e questo non c'è in Italia. Allora, un obiettivo di quelli che sono scritti nel programma, che tu hai contribuito a scrivere, al quale sta guardando oggi la comunità scientifica, un traguardo che vogliamo raggiungere? Ce ne sono diversi, diciamo. Prendo uno facile e tuttavia importantissimo, ed è appunto questo lavoro di ricerca della vita extraterrestre, per dire in modo semplicistico, che parte, come dicevamo prima, dalla scoperta di pianeti extraterrestri, e questi oramai ne abbiamo scoperti un bel po'. Quello che ci manca, ed è l'obiettivo, adesso lo dico subito, dei prossimi strumenti, è la caratterizzazione di questi pianeti. E cioè, se stiamo parlando della nostra galassia comunque, o anche fuori? Sì, no, molto, all'interno della nostra galassia, assolutamente molto vicino a noi, proprio in un angolino nel vicinato di casa, nel cortile di casa nostra rispetto alla nostra galassia. E tuttavia, siccome ci sono diversi pianeti che potrebbero, per esempio, il prossimo strumentone che stiamo costruendo in Cile, lo Extremely Large Telescope, 40 metri di diametro, punto, ripeto, 40 metri di diametro. Un unico specchio di 40 metri? Non è un unico, è fatto di piastrelle, però alla fine funziona come un unico, funziona, vuol dire, lavorato otticamente su 40 metri di diametro. Mi più della larghezza di un campo di calcio. Un bello zoom, insomma. Sì, ecco, mica pizza e fichi. Cioè, Galileo ha cominciato con 4 centimetri, sì, 40 metri. E ha visto anche le sue cose. Appunto, non ho scherzato niente. Questo qui però potrebbe, per esempio, farci l'analisi della luce che passa dentro nelle atmosfere di questi pianeti. Se noi... Per capire l'atmosfera... No. Sì, per capire di che cosa è fatta l'atmosfera. Ma se ci trovassimo dentro le righe dell'ossigeno, per esempio, vorrebbe dire che su quel pianeta c'è la vita, perché se no l'ossigeno non potrebbe... Quantomeno c'è la possibilità. No, c'è abbastanza la certezza. Sì. Cioè, poi vediamo le righe della clorofilla per dire ancora meglio. No? Quindi 10-20 anni potremmo avere la certezza della vita extraterrestre. Quando entrerà in funzione l'Extremely Large Telescope? L'Extremely Large Telescope ufficialmente nel 24, forse qualche anno dopo, ma insomma almeno una decina d'anni, certamente sì. Ma questo è solo un esempio che ho fatto, ci sono numerosi altri. Sì, ci accontentiamo, Roberto. Ma direi di sì. Ma dacene un altro. No, poi c'è tutta la parte di radioastronomia, astronomia che non si fa nella luce che si vede, ma in quella che si sente della radio, no? A varie frequenze, e l'universo è estremamente attivo in questa gamma di frequenze, e noi stiamo costruendo, siamo un po' più indietro che l'OLT, però siamo già a buon punto, il più grande radiotelescopio del mondo, che sarà fatto da migliaia e migliaia di antenne messe insieme, sparse dai deserti del Sudafrica ai deserti del sud-ovest dell'Australia, per esempio, che funzioneranno tutti insieme e produrranno più dati di internet. Hai presente cosa vuol dire? Produrre più dati scientifici che non internet. Messi insieme tutto quello, avremo una visione dell'universo alle frequenze radio. Tra l'altro sentiremo se ET c'ha radio popolare, per esempio. Per il momento ci accontentiamo di mandare un pezzo via etere. Dai. E mandiamo un altro pezzo scelto da te. Grazie. Suzanne, Leonard Cohen. Leonard Cohen. Suzanne takes you down to her place near the river. You can hear boats go by, you can spend the night beside her, and you know she's half crazy, that's why you wanna be there. She feeds you tea and oranges that come all the way from China, just when you mean to tell her that you have no love to give her, she gets you on her wavelength. She lets the river answer that you've always been her lover. And you want to travel with her, you want to travel blind, and you know you will trust her, for she's touched your perfect body with her mind. And Jesus was a sailor when he walked upon And he spent a long time watching from a lonely wooden tower. When he knew for certain only drowning men could see him, he said, all men will be sailors then, until the sea shall free them. But he himself was broken long before the sky would open. Forsaken, almost human, he sank beneath your wisdom like a stone. And you want to travel with him, you want to travel blind, and you know you will trust him, for he's touched your perfect body with his mind. Suzanne takes your hand, she leads you to the river. She is wearing rags and feathers from Salvation Army counters, and the sun pours down like honey on Our Lady of the Harbor. And she shows you where to look amid the garbage and the flowers. There are heroes in the seaweed, children in the morning, they are leaning out for love. They will lean that way forever while Suzanne holds the mirror. And you want to travel with her, you want to travel blind, and you know that you will find her, for you've touched her perfect body with your mind. Grande, Leonard, grande, grande. Grandissimo Leonard Cohen. Allora, riprendiamo un po' della tua storia, Giovanni Bignami. Tu volevi fare l'astrofisico fin da bambino? No, no, no. Da bambino terrorizzai la maestra. Guardavi le stelle. No, terrorizzai la maestra perché credo in secondo o terzo elementare scrissi il solito tema: cosa vuoi fare da grande? Scrissi: voglio fare l'anatomopatologo. Una parolona che dovevo andare a capo a scrivere. C'ho ancora il quaderno. Mia madre era tenuta. La maestra convocò mia madre. Mio padre era medico, aveva un amico anatomopatologo che mi piaceva moltissimo. E quindi io ho scritto. Mi piaceva l'idea di studiare i cadaveri, capire come erano fatti dentro. Mi piaceva moltissimo. E per un po' di tempo ho accarezzato l'idea di fare il medico, appunto perché mio padre lo era. Poi mi innamorai perdutamente della professoressa di matematica e fisica al liceo Parini di Milano, un liceo snobbissimo, così, figattone, d'altri tempi. In tempi di Zanzara? Sì, modo. Io ho scritto il mio primo articolo su La Zanzara. Vedi? Sì. È vero. Lei era una vecchietta, a me sembrava tutta sciancata, così, un disastro, cattivissima, che faceva compiti in classe a sorpresa, cose repressive d'altri tempi. Però un giorno entrò con in mano un pendolo e fece girare il pendolo, così, e io basta, da allora ipnotizzato decisi di fare il fisico e non ho mai guardato indietro. Poi, grazie a Occhialini, decisi di fare l'astrofisico e anche lì poi non ho più guardato indietro. Che tra l'altro è una branca abbastanza recente, tutto sommato, no? Beh, insomma, no, adesso recente, già. Recente, cioè, non antica, quantomeno, insomma. Vabbè, non commento. Non commentiamo. Hai cominciato a scrivere con La Zanzara, poi non hai più smesso perché hai scritto tanto. E questa è un'altra delle cose di cui vale la pena di parlare, no? della capacità degli scienziati poi di raccontare quello che fanno e di raccontarlo magari anche in maniera un po' leggera, divertente, senza formule, senza ogni formula di mezza il numero di copie, esatto. Ce la fai, però, tu? Sei bravo come divulgatore, sì. Sì, preferisco usare la parola comunicatore, più elegante che divulgatore, che è pure nobile origine latina, ma, insomma, ma sì, mi sforzo molto, sia come libri, sia anche come giornali, cercando di farlo proprio sui quotidiani. Adesso collaboro molto con Repubblica e L'Espresso, si può dire, e poi ho scritto un bel po' di libri, tradotti anche un po' in tutto il mondo. Mi sembra veramente ancora una volta un dovere, però mi piace, mi piace, mi fa paura prima di cominciare, ma è una droga terrificante, non posso smettere finché non l'ho fatto. Ma io lo dico scherzando e con grandissima invidia in realtà, perché tu scrivi molto di più di quanto non scriva io, che faccio di mestiere proprio il giornalista, no? Scrivi tanto, hai un bellissimo sito, ricchissimo di un sacco di informazioni. Chi è che te lo gestisce il sito? Beh, intanto diciamo che cos'è questo sito, insomma. Credo che si chiami www.giovannibignami. molto poco facile da trovare. È facile da trovare, ma sì, lì devono essere elencate tutte le robe che scrivo. Me lo tiene un amico con cui, che saluto con affetto, con cui non ho contatti così tanto come vorrei, ma un po' in automatico, una persona bravissima e capace di metterli dentro. Sì, cerco di produrre molto. Non ho mai fatto il giornalista perché una volta da piccolo volevo prendere la tessera, dopodiché mi hanno fatto delle tali difficoltà che ho detto ma andate a quel paese, a me non mi frega, non ho nessun bisogno di diventare giornalista. Però immagino, volendo, potrei, nel senso che ho pubblicato. Come pubblicista? Ovvio. Ho pubblicato un sacco di cose, però irrelevant assolutamente. Beh sì, è uno dei modi, poi ci tengo molto, lascia che te lo dica, insomma, anche la televisione, che tutto sommato è importante. Io ho avuto l'onore di collaborare con Piero Angela per molti anni, la rubrica Polvere di Stelle. Certo. Beh, insomma, quello lì ho modo di raggiungere un casino. Sì, io ricordo una serie proprio di astrofisica meravigliosa che io utilizzai tantissimo nella scuola, appunto. E poi anche National Geographic. Sì, è interessante capire. Sono ancora disponibili queste... Sicuramente sì. Io personalmente ho tutte quelle di National Geographic Channel, sì, che sono piuttosto belle. Ma anche quelle di Rangel sono bellissime, sì, ma sono da estrarre da delle teche RAI, è un pelino più complicato burocraticamente. Però, insomma, certamente sono, come dici tu, uno strumento didattico. Infatti, fantastico. Io li faccio proprio così come vado spessissimo, parlo molto spesso in scuole ininterrottamente, e vado a cazzeggiare del più del meno e poi anche a presentare i miei libri, ai quali cerco di dare titoli. Vediamo qualche argomento che hai trattato. Beh, per esempio un libro si chiamava I marziani siamo noi, un successo folle. Famoso, famoso. Sì, chi lo sceglie il titolo? No, adesso lo dico con falsa modestia, molto falso, ma però li ho scelti io, nel senso che ci tengo molto. Un altro si chiama Cosa resta da scoprire, che non è male neanche lui come titolo. Oro dagli asteroidi, è l'ultimo, e asparagi da Marte. E l'ultimo è Oro dagli asteroidi e asparagi da Marte. Sì. Ma davvero tu dici che coltiremo gli asparagi su Marte? E certo, sono figata pazzesca di asparagi. Sono biannuali, attenzione, ci vuole un sacco di tempo per farli crescere. Sì, ma nelle sabbie rosse di Marte, ecco. Ferrose, crescono, poi ti mangi col DNA dell'asparago terrestre, li metti sulla gravità marziana al 40% in meno, gli asparagioni enormi. Con uno ti sazi. Sì, li porti a casa con l'astronave, cara, sono appena arrivati dall'astronave, freschi, chilometro zero. Fantastici. Senti, andiamo a sentirci ancora un po' di musica, dai. Grazie. Tu, vedo che tu spazi dal pop al country alla musica classica anche. Più classica, confesso. Però ho avuto pietà. No, per esempio, i concerti brandeburghesi, appunto, hai proposto il terzo. Lì sono le sfere celesti. Sì. Il terzo tempo del terzo. Sì, ce lo andiamo a sentire. Sì. We'll be right back. tutti quelli che banalità dire un grande di Bach. Vabbè, tutti quelli che studiano fisica e matematica per Bach perdono la testa, sbarellano assolutamente. Però qui dentro c'è tutto il ritmo dell'universo. Ma qui stiamo lasciando andare via Giovanni Bignami senza chiedergli della scoperta dell'anno. Bisogna assolutamente che tu ci dai una le onde gravitazionali. Certo. Beh, insomma, è vero che è giusto dire la scoperta dell'anno è uno dei grandissimi risultati ultimissimi in ordine di tempo dell'astrofisica previsti da Einstein un secolo fa. Ci è voluto un secolo per riuscire a vederli. Puntuali, un secolo. Puntuali, ma però casuale questa cosa, nel senso che siamo riusciti a mettere insieme. Sì, sì, riuscire a mettere insieme dei rivelatori capaci di vedere queste perturbazioni del cosiddetto spazio-tempo, cioè della cosa nella quale noi viviamo, che fanno sono molto molto piccole come perturbazioni, però alla fine siamo riusciti a cuccarli e abbiamo imparato una quantità di cose incredibili. Che cosa? Beh, per esempio che i due eventi che abbiamo finora visto, e non so se tra poco ne arriveranno degli altri, ma su questi due, vengono da quella roba un po' difficile, una parolona, ma la dico lo stesso, coalescenza di due buchi neri, che vuol dire due buchi neri che girano uno intorno all'altro al ritmo del concerto brandeburghese, proprio li vedevo benissimo, che girano, spiraleggiano uno intorno all'altro e poi si spetasciano, come si dice in termine tecnico milanese, cadono uno sull'altro finché sono coalesciuti, come è participo passato di coalescere? Sarà quello. È un po' difficile da immaginare. Ecco. Insomma, da due diventano uno solo. Solo che facendo il conto della massa dei due prima, per esempio gli ultimi erano 1,8 e 1,12, alla fine ne veniva fuori 12 masse solari, cioè 12 volte il nostro sole. 12 volte la massa del nostro sole, qui delle bestiacce grosse, sì. Il nostro sole è una bella stellotta, ecco, delle bestie molto grosse, alla fine facendo i conti mancava una massa solare. Orco, una massa solare mandata in energia è uguale a mg quadro, è un casino. Sì, di detto difetto di massa. Il difetto di massa è un'altra cosa, non facciamo casino. No. Sì, comunque, diciamo, alla fine, concettualmente c'è una massa mancante, la quale però è evidentemente andata a finire in energia, è uguale a mg quadro. Ma se m mette una massa solare è un casino di energia, la quale va essenzialmente in onde gravitazionali, forse non solo, ma insomma. E sono quelle che sono state rivelate, cioè la morte di due buchi neri che cadono uno sull'altro dopo una danza che dura qualche milione di anni, poi alla fine spiraleggiano rapidamente. Nel caso di quelli più leggeri abbiamo addirittura visto gli ultimi 27 giri uno intorno all'altro, una trentina di giri, e quindi è assolutamente affascinante anche la quantità di fisica che abbiamo potuto fare osservando la morte di questi due oggetti. Senti, ma spiegami una cosa. Allora, un'intera massa solare che diventa energia, sì, e che si spande per l'universo, eppure queste onde gravitazionali sono così lievi, così... Sì, ma questa è una roba lontanissima. Ecco. Sì, no, perdono. Anzi, proprio dal fatto di aver calcolato questo difetto di massa, viene fuori che uno dice, allora vediamo che distanze sono nati, e quell'ultimo di cui stiamo parlando è 1,4 miliardi di anni luce. Cioè stiamo vedendo una cosa che è successa... Sì. 1,4 miliardi di anni fa, ma questo è una roba... Questo anche la luce delle stelle, no? Sì, questo non... L'importante è la distanza più che il tempo. Ecco, però la cosa che mi ha un po' sconvolto parlando prima è che mi dicevi che io ho sempre pensato che il buco nero fosse energia pura, invece no, c'è una massa... No, è una massa molto misurabile, appunto, espressa per esempio in masse solari, ma puoi esprimerla in chili, in grammi, in panetti di burro, come vuoi, la massa puoi esprimerla come vuoi, però massa, la quale però è super, diciamo così, concentrata, cioè questa massa è dentro in un volume molto piccolo, per esempio quelli classici che conoscevamo finora, buchi neri di qualche massa solare dentro una roba che ha un raggio di 3 o 4 chilometri. Una densità incredibile, talmente alta che l'attrazione gravitazionale è così forte che la velocità di fuga da quello è maggiore della velocità della luce. E quindi il fotone, povero sfigato, cerca di venire via e tac, ricade indietro. D'onde il nome buco nero, perché è nerissimo. Scuro. Ma e questa immagine che abbiamo del buco nero che si mangia tutto quello che trova intorno? Beh sì, perché... Sì, no, è giusta. È giusta se tu gli capiti vicino, sì. La forza di attrazione che ha, no? Sì, certamente. Cioè, ci sono dei metodi canonici per cadere dentro in un buco nero, cioè spiraleggi, così, però... Raggio di Schwarzschild. Bravissimo, raggio di Schwarzschild. Quando sei arrivato al raggio di Schwarzschild, so cazzo. Hai chiuso, sì. Vabbè, sì, c'è chi voleva mandare dei laureandi a fare la tesi sul raggio di Schwarzschild. E però, il buco nero butta tutto dentro. Tutto dentro e non esce proprio niente. Allora lì ci sono sottili discussioni, il solito Stephen Hawking che dice qualcosa esce così, trascuriamo, non facciamo casino. Va tutto dentro. Ma è il buco nero poi che fine fa? Esatto. No, sta lì tranquillo, dopo cosa succederà? Ma questo buco ha una fine? No, perché il concetto di buco è un po' sbagliato. Uno tende a pensare a un buco nero come quello del lavandino, invece no, è una massa, è un sasso essenzialmente, che però fa bucare il tessuto dello spazio-tempo. Solito discorso della membrana di gomma sulla quale fai scorrere una pallina di ferro, fa la curvatura dello spazio-tempo. Lì la curvatura diventa infinita, per cui voilà. Però la fine dell'universo non è finire dentro un buco nero, al contrario. No, fino adesso è una roba più complicata, una roba più complicata che preferirei al momento skippare adesso, data l'ora tarda, diciamo. Poi non la sa nessuno, quindi potrei dire tutte le cazzate che vuoi. Senti, Giovanni Vignani, credo che sia stato veramente un incontro molto interessante, ci hai detto cose bellissime. Grazie. Il tempo purtroppo sta per scadere, per cui io chiuderei ancora con una canzone tua, un pezzo che tra l'altro è stato reso famoso da Harry Nilsson e che è stata anche la colonna sonora di Un uomo da marciapiede, un pezzo ancora di matrice abbastanza country come amavi tu. Per cui ce l'ascoltiamo e poi sulle note magari ci salutiamo. Everybody's talking at me, I don't hear words they're saying, only the echoes of my mind. People stopping still, I can't see their faces, only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain, going where the weather suits my clothes, banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a stone. Allora sfumiamo su Harry Nilsson, l'uomo da marciapiede. Allora, grazie Giovanni, è stata veramente un piacere conoscerti. E grazie a voi, è stato bellissimo. Grazie per tutte queste musiche. Grazie professore. Va bene, allora chiudiamo qui questa trasmissione. Per l'astrofisica per oggi ne abbiamo avuto abbastanza. Sì. Ci sentiamo la prossima settimana. Ciao. Ciao. Roberto Caselli e Paolo Magliocco. Ciao. Everybody's talking at me, can't hear a word they're saying.